canale 10, c'è qualcuno qua? Tu canale 10. Fratelli! Chi è? Sono tu chi è? Chi è? Chi è? Si qualifichi! No, si qualifichi lei! Veramente sei tu che hai chiamato? No, sei tu che sei Giamelli! Io ti sono Giarondelli, buonasera! Buonasera anche a lei! Oggi andremo a... Ti piace? Non ho capito. Ma hanno più la televisione che a te. Non so che sente più la televisione che io. Riesci a vedere che... E gli abbasso, grazie. Oh, uscendo sto dottore. Che stai uscendo? Sei fuori. Come fuori? Ma ci merito se stai uscendo, sei fuori, sì. Ma così è. Aspetta, sì o no? Cioè, non li posso fare né casa né lana. Ah, un pezzo di gage, un pezzo di rana, l'aliemo. Così è. Cazzo, non è entrato nessuno in casa. No, ha detto che no, stasera non ha regana. Come sta uscendo questo microfono? Bene. Meglio così. Meglio così, ho messo a posto dopo di tanto. C'aveva una cosa che non andava, la batteria. Ma tu pure lo vuoi farci senza batteria? No, ma si governa a 12 volts. Si governa con l'alimentatore. Almeno non cambia le batterie. Infatti, qui andando a 12. Anda bene, Neda, sta uscendo bene. Aspetta che ti provo a mettere l'eco a vedere come esce. Prova a punirlo. Guarda a vedere, 1, 2, 3, prova. Sì che c'è. Bene. Via. Effetto cattedrale, Brooke. Molto. Sì, perché l'ho regolato. Regolato un pochino con il grip. Ok, va bene. Anda bene, Neda, anche io ce l'ho, ma bisogna regolarlo, bisogna avere un altro apparecchio per ascoltarti, se no è un macello, non ne poco mai bagisso. Questo si attacca le cuffie al microfono e te lo regoli. Ceduglia. Sì, ho capito. Qua non è ho il microfono così. C'è la radio, l'eco, ma ci vorrebbe un'altra radio con le cuffie per regolarlo. Capito? E qui a me l'eco non mi piace, non ha manco un rigurato. E ci dà del buco. Infatti, manca a me piace. Mi piace farmi sentire con l'eco. Magari con uno di fuori, allora te lo potresti mettere per farti sentire più forte. Ho capito. E poi non sono camionaro io, la patente me l'hanno, cioè non me l'hanno presa, l'ho versata io. C'avevo anche quella. Tanto cosa te ne fai? Quando arrivi a un certo punto, devi farlo ogni anno, devi farla, quindi è meglio lasciarla che alla guida. Oh, ma poi a me me l'avrebbero rinnovata per 5 anni, no? Però dico, cato, a ribaghi tutti chi si di Napa a mantenirla, se sta travagliando. Se non sei fruttelli che a me ruba via va, ma giù va tutta chi c'ha di la macchina e boh. E oggi ho pagato in più per farla declassarmi. Sì, ti fanno pagare in più, ti fanno pagare per portarla alla vita. È meglio della così. La fa per l'anno per 5 anni, a me me l'hanno baciata a 3 anni adesso. A me per 5 anni me l'avevano rinnovata. Io faccio 67 anni ad agosto. Per la famiglia. E quando fai 70 anni te la baciano 3 anni. E mi la posso baciare fa 3 anni e chi se ne fotte? Lo dimmi a 3 anni, andiamo. Io devo andare. E a me, io quando sono andata a rinnovarla l'anno scorso, mi ha detto signor Pinna, per 3 anni la rinnoviamo. Facciamo 3, 6, 9 e poi per 2 anni. E così fatemi. età vanno, quando c'hai 70 anni te la tolgono fino a 3 anni. Da voi lo fate ne basta 2 volte, mi pare, da voi ti rabbassano a 2 anni. Da voi basti 2 anni e ti rabbassano a 1 anno, da voi se non sei più idoneo se ne rabbiglia. Fanno proprio così, a età va, capito? Come raggiungi una certa età te la abbassano. È già così natalissimo. Fanno da fate 70 anni ti fanno 3, 6, 9, e poi ti abbassano a 2 anni, ti abbassano. E poi arrivi a 1 anno, e poi arrivi a nulla. Adesso me la dovevano dare per 10 anni a me. Invece no, 5 anni, perché avevo fatto 65 anni, mi va. A 65 anni te la portano a 5 anni, ti negavano i 5 anni. Allora la bidura dei anni, non è così? Sì, no, anche a me hanno fatto così, 5 anni. Fatti 5 anni, me l'hanno abbasciata da a 3 anni, me l'hanno abbasciata. E vabbè, mi dice, vengo 3 anni, e poi altri 3 anni, e poi altri 3, e poi cominciamo a 2. Si è fatta la volontà di quello di su. Ci siamo vivi. Infatti. Se ti vuoi bere tu di sopra, ha fatto durare fino a 80 anni, hanno diventato bambino. Sì, è vero. Gian Maria già ce l'ha ancora la patente, così è. Cercano di rinnovarla, però se non ve il coso, non so perché cosa gliel'hanno... Ti stanno chiedendo un documento che non so cosa. Un K. Ed è già ma più di 80, Gian Maria, così è. Sì, penso di sì. Però già me la voto ancora. Ha detto di così. Piccolo è, ma... Caro dico che non si comprende nulla. Io non l'ho capito, è arrivato basso basso qua. Eppure a me arriva in basso basso. Ciao Manuel, buonasera pure a te. Sei entrato sì? Buonasera, io adesso mi sfugo, sto qua, domani mattina alle 5 e mezza. Oh, lascia fare, non fa nulla. Ma di vestiti. Ma di vestiti? Che cazzo mi divisco? All'Iluito sì. Ciao Manuel, hai pizzina. Vabbè, Natali. Allora. Stanchi siamo. Siamo stanchi sì. Siamo stanchi sì, Natali, lascia perdere. Cazzo, ma ci vogliamo una di chi si bini? Come te chi sa che hai comparato tu? E me l'hanno data senza batteria, che... Vivono 3 batterie che ti vedi grossi. No, la mia è ricaricabile, Natali. La mia fa sia batterie normali sia ricaricabile. Ma non lo so se la mia è ricaricabile. In ferro, Emmi. Sì, io la mia è ricaricabile. C'ha il cavo che attacchi alla spina e la ricarica. Si illumina e poi ti dice che quando è carica al 100%, è digitale. No, io così non la giubilo, me la giubilo da normale. Tanto io la uso solo per vedere il serbatoio del cherosene. Fanno bassamini il cherosene in terra. Poi lo rivelo in chi come ti vengo guiata, tac, chiudo il rubinetto. A chi va giù di sabon pago il rubinetto, no? Per travasarlo. Dove l'hai presa dai cinesi? Eia. Vabbè. Già vanno bene anche quelle pile lì. No, io l'ho presa lì da coso, da marca americana quella che c'ho io, la pila. Da ma facciamo vedere il nome. Ma da quello di Via l'Italia si è andato. Ma non mi ricordo come si chiama. Chen. Chen, bravo, Chen, l'ho presa lì. Chissà che non si deve fatta pagare, caro che sangue, visto. 90 euro, ma è bella veramente. C'è quella, poi c'è un'altra piletta che si attacca alla calamita, si attacca dove cazzo vuoi, e poi c'ha il suo marsupio che sta per attaccare i pantaloni. Ho capito. No, a me serve buona la tagli da ciappelle, che la pila mi serve buona, no, di ginisi. Infatti, a te ti serve una valida, avrà le batterie ricaricabili, quella lì, e così almeno te la puoi ricaricare. Questa la puoi usare sia con le batterie normali sia con le batterie per ricaricare. Sì, infatti, sicuramente il dottor Dione danno due batterie ricaricabili per poterla ricaricare, no? Sì, ce l'ho il ricambio. Riprendi con il dottore che mi ha sentito un attimo. Via, vada e si spugli, vada. Avanti tu. Sì, vai, vai. Dai, così. Sì, vabbè. E delle mogli stavo dire. Cosa? La pila si bilirisce e già va di una testa, e poi tre batterie normali non funzionano la testa. Sì, fa un bel di luce, è bella amico la pila. Le ho già messe le batterie, perché a me mi serve per trapassare il cherosene, no? Così guardo il livello che c'è nel serbatoio, no? Quando vedi che sale quello li spegni e così non si ingaggia in terra il cherosene. E infatti così. Infatti è così. No, io ho lo stesso, una stufa dove si mette il carosene. È vero, rivelli in chi viene il serbatoio, no? E io uso la pila per vedere il livello quando sale, no? E cioè, quelle a coso, quelle grigie. Sì, grigia è la stufa. Io vedo benissimo anche di e consuma veramente poco, è veramente bella. Manda l'aria calda, manda, si può regolare. Capito? È sta digitale, è bella, La più pagata, però naggio un'altra in cucina, però chissà non è digitale, chissà è normale, consuma un bel di più. Ce l'ho anche io quella grigia, ce l'ho anche io. A Giovinito un carosene ci hanno regalato un bidone di Zibro, sta giù molto chissù. Se vanno a Zibro veramente, io è che la sto facendo andare a cherosene, perché lo Zibro costa il doppio. 10 euro in più costa. del Zibro. No, il Zibro costa 10 euro in più del carosene. L'avevo preso io, avevo pagato 45 euro. No, aspetta, 20 euro in più costa il Zibro. Tu cane a Bagendi, cazzo, ha suonato uno. Ha suonato e il cane abbaia, come senza il campanello guai. Come ce l'avevo io il cane così, che abbagliava che non suonava il campanello. Ah ma per dire invece no. Se ne invece sì, però non abbaglia. Ehi, non ne ha puttinuta, invece dice ma ha ragione che è arzillo, cazzo. Subito, il minimo rumore, la minima cosa, cazzo, subito da pisa. Si la pisa a mia moglie quando vieni con la pagina alla lavatrice, a chi suona, no? Quasi un sonareddu. Tu l'intendi, cazzo, subito dici che la lavatrice ha finito. Puzzinoso. E non invece così che ti avvisi e ti dice vai a aprire la lavatrice. Ehi, subito ti avvisa. Quando finisce no, suona e si mette la luce verde che puoi aprire lo sportello. A chi si nota la lavatrice, manco lo sportello deve aprire. E infatti così è. Chi è così che fa? Ma si pone il ruglio, no, la lampadina. Quando è andendi la lavatrice. Quando si ferma che ha finito il lavaggio, allora diventa vecchio. La mia si ferma quando arrivi a due trattini ha finito. In casona. Ed è pagisso chi rugani da vesti. Quando intendi l'uso, se no si è buttando in reva, amico. Cazzo, quando pongo reva per la ministra. E tu sapisa che è buttando in reva, se lo vuoi immaginare. Rugani è sensibile. Ma un fiuto che noi non avemmo. L'udito c'ha più forte il fiuto. Cazzo, è subito da vesti. Quando inizia a buttare la badetta, no? Però se chiedo, intendi il rumore del coso? Io so chi no, che non intendo nulla. Cazzo, vedete la città avvisa. Allora ando e tappo la patata con i denti. Dimmi tu, non pari vero. Da stanotte a posto vuoi, vai, che non so più niente, che so che sei tu, ma non so più niente, era più, stava piovigginando. Stamattina stava cominciando a piovigginare, mi ha trovato lì, ero a Lima Delta, vicino a te, ero, e stava cominciando a piovigginare. Oh, no, io stasera che sono uscito, la mia torre era giù. Oggi mi sono preso nelle gocce dell'Eva, ha detto mi stanno a fare, vai. Ma ci ho fatto venire da Luca che su strumento che tratta va a amplificare la radio, però lo devo ancora, lo devo fare i capi, tutto canto, che su metale. Non ho capito, no. Lo strumento? Un pedale che fa l'equalizzatore e ti fa amplificare la radio. Io ho lo schema, c'ho di quello lì. Ho bruciato lo schema. Poi ho un coso per fare tutto quanto. No, mi devo bucare lui di Jack, di chitarra. Dobbiamo dire che. E da voi mi piatto l'MC60 nel ICOM, che così ridiamo. Quando l'attacco con Rubini, lui vede a vedere come ti alza la radio. Sì, non sarà forse il voto, no. Un bel forse, Ti gioco di senti, quando non tratta Luca da tutti la radio lì. Ma quando tu lo spegni, no. Basso si intendi, come ti poco l'attacca alza la radio di Goi, come ti fai il processore. Ia. Andava. Amplifica molto, amplifica. Sì, vabbè. È un coso, ma in genere serve per il coso, serve per la radio di coso. È anche equalizzatore, questo è bello, è veramente bello, c'ha tutti i livelli, c'ha l'amicizia per i popoli, già è così. Ma Franco non è inteso, no? Fuori non so se oggi è rientrato, mi ha detto mia moglie che rientrava oggi. Oh, non si va da fare, intendi. Oggi è andato a vederci lo Garrasciari a Tempio. No. Deve essere andato dalla sorella della compagna a Coso e a Sant'Antioco doveva andare. Ah. E anche lì lo fanno il carnevale, la sfilata. E boh, non lo so. E a vanno, stava a Fantinita, sì. Fino a gara. Poi già la tracco, già la... Quindi... È un bel tracco. Boh, non lo so. Vediamo un po' com'è la situazione. Se ci faccio intendere vuol dire che non è tratto. Bisogna vedere quando è rientrato. E se è rientrato, dice che rientrava oggi. Io non l'ho sentito. No, è rientrando ancora. Cioè, cammino. Chi vede un cano, Ma che sono 130 o 140 chilometri giù. No, che di più. Cioè, tanto da Cagliari mi pare che siano 67 chilometri giù. Allora non so 130, no? È da voi di Cagliari. Vabbè, io da giù così. No, già è un bel lontano. Che è un anno che non ando a Cagliari. A Gana. Poi con la gamma come c'ho. Non mi va di viaggiare. Guarda Marilena, di voi. Stai zitto, tu stai zitto, cosa vuoi? Ma brutte se di voi, Natali. Non me ne può fare, mi la giudizio a coso, a Giulio di farmi la in coso, in pieno di Svezia, e non me ne può fare. Non ti piace, Emanuele. Non ha gana di bambini. Oh, in oggi, bella doccia, compreso. Come si fa a me la carilena? Già mancava via. Ma io me la voglio fare in legna. Così se ne tagliamo e faccio un pezzo del ricambio. La nevica che la fa se la va come ti... quello del comando, pure, che fa che la zucca, ma... I cinesi l'hanno programmato e fanno i bracci, gli unici, le gambe. Ma no, che da voi sono troppo veloce, che io faccio più anziano. Se vedi la macchina, la puoi capire. E poi con rubiti la macchina. Certo, e la posso fare di legna, da cosa? Da Giulia, va convinto, chiede il mastro da Ciavono. Dai, andiamo a vedere con chi c'è la gente di stanca. Babbo! Non è colpa mia, purtroppo, non avevi bisogno, sangue, Marazzucchi. Avate, può fare una dacca e non per lupo. Avete se mi buono per aghi, sta cosa, chi vaggio. A chi se non manco nell'anca vuole intervenire, se non mi appareggia una chissà cosa. Hai una rabona. Adesso devo fare la visita degli occhi, devo fare. Quella cardiologica l'ho già fatta. Chi si dura a ciappare, l'ha già ciappati. Ma la dacchi no, e mi serve però tra 3 mesi, per forza. Ah va, come ti posso dire, lo ci comincio a telefonare a lì. Voglio vedere se la ciappo. E se no andrà già a pagamento, cosa vuoi ti dica? E invece il dottore dire una cosa, diabetolo. Se ne andrà nel primo marzo, se ne andrà in pensione. La manetta, la città, che non entra un altro. E fai così tu. Cazzo. Io invece, là già a marzo, il 6 mi sembra, ma non me la metto. L'ha già scritto nel calendario quando devo andare. 10-48 anni, spero di avere... A Rizzedo devo andare io. Tu a Rizzedo vai. Sì, no, ando a Rizzedo. Ho telefonato per prendermi l'appuntamento a aprile e maggio e mi ha detto che sono senza il medico, che tra poco se ne va in pensione, il primo marzo se ne va in pensione e devo aspettare che ne mettano un altro, hai compreso? Mi chiamano loro. Ah, tu, al prossimo anno, no, quasi prego, lo mando anche subito. Agi tu, andate. Grazie, via. Chissà che va giù, è giovana, è brava pure come te diabetologa quella lì, che ce la congiù io. A fancello c'avevo io, c'avevo a fancello, non lo sapevo che se ne andava, che fanno, non me ne ha detto. Telefoni a gennaio, mi ha dato i 3 numeri. La signora mi ha detto, anzi la signora mi ha detto che il primo marzo se ne va in pensione. E devono mandare il sostituto. Ha detto, cazzo, è quando? Al prossimo anno? No, già lo mandano in fretta. Mo? Sempre che mi voglio andare, io. E sempre che lo trovi nel sostituto, noi così no. Ma se no ti vai da Ragongio tu. È brava Ghizza. Faccio così, faccio più che altro. Aspetta che hanno suonato. Sì. Manuele. Ah, Ragongio, chi sa più tendi se deve a secca. Chi è, chi è? Avanti questo col beat. Tu andata a fare la chia. E vai, troioso. Teresa, chi è? Chi non è? Chi Teresa, eh? Comunque la macchina me la dà presa giù a Ampada. La macchina? E allora? E cosa è successo? La prima volta è andato, cioè si è bucato un tappo di fusione e si è mischiato l'olio con l'acqua. attrezzata tutto quanto, boh, non lo so. Alla fine mi ha rotto i coglioni, poi stavano a due candele sempre, a due cilindri, mi ha rotto le balle, peccato che c'erano le gomme nuove, cazzo, cinque gomme nuove nuove, la batteria nuova, tutto ci ho buttato. La demolizione devi fare, mi. E non l'ho fatta. Ah, l'hai demolita. Però se no, cadevi nulla a pagare. No. Questo mi ha dato fortuna. Quindi hai bruciato la guarnizione di testata e tutto. E la butta di uso, Eva. E la guarnizione è addestrata, quando ci miscia l'uso con l'Eva. Ah, infatti l'ho buttata. È partita la guarnizione quando fa così. Ciao, Lu. E beh, ma non è. È partita la guarnizione della testata quando si mischia olio con acqua e alla frutta. Lo so. Cazzo, ma pure uno quando vai a guidare la macchina. Emanuele, se ti posso fare, da così pazienza. Io. Vabbè, anche io già mi ho speso soldi per l'appunto, però appena non mi ha mai lasciato. Pensa, grazie a Dio, lo stesso va benissimo. Ho fatto il italiano, tutto quanto, andava, è un buon po'. Meglio così, Emanuele, meglio, sono contento per te. Questa sera sono trovato una 600, 1100 in cilindrata, come si dice, comunque per sicurezza l'ho portata dal mio meccanico, l'ha controllata, metto a ciappillino, poi ci tira a due, cazzo via poco, stava di avva, molto non un mombo, però quando io vedo se batto io del liquido, che è rugginoso, già da lì. Non è prendere lui, dice, cioè, se devi prendere una macchina non perché ce l'ho io, te lo dice anche i meccanici, la Toyota come ce l'ho io, una Toyota 1000 va più che bene, 5 porte, va di lusso, non ti dà mai problemi con la macchina, lì. Sono dei trattori, sono quei motori. Ve li sono messi un mare, ce n'era una cazzo come la mia, uguale alla mia, 5 porte la stavano dando, 1500 euro. Però ma non è sempre, il discorso è sempre, sono macchine vecchie, bisogna vedere quello che c'è da fare. No, tu la, cazzo, è certo che sono macchine vecchie, lo so, però tu la guardi, se la macchina è a posto, che ha fatto tutti gli italiani come si deve, cazzo, è normale che la macchina la rivedere, non è che l'abbia uccisa a radio. Infatti. Io quella che ho preso io adesso, questa qua l'ho provata, tutto quanto, sì, ci ho messo qualche soldino, però la macchina è un po' buona, va. Però gli italiani li ho fatti adesso, e tutto quanto. Vabbè. Infatti la voleva uno, che questo qui ce l'ha, la moglie, 3 porte, come la mia, mi fa, guarda, se... quant'è che la sta venendo la tua, mi fa lui, no? Se la vuoi, a me di meno di 4.000 euro non te la do. Posso scendere, dai, almeno 3.500. No, troppo qui, troppo là. E la sera le la vendete 2.500 che da 3 porte. E va via 260 km. Ma non si. Si fa 10 km si vuole lampada. La mia è da 750, la mia della giubiliata. Cazzo, e la sera la voglia venire 2.000 euro, la mia no, che la truffo. E allora? Tu ti cercano di tirare l'acqua al suo mulino. Non lo sai. La mia, se io la dovessi vendere, la mia, è rovinata di carrozzeria, però non va a chilometri, la mia cazzo va a motore che è una bomba. Allora Manuel, Toyota Yaris, grigia, 3 porte, c'è qualche macchiatura, motore perfetto, 3.000 euro, chilometri 83.000. E quale? La Yaris. E quelle sono macchine che vanno bene, con quelle vai al sicuro lì, non ti dai, però guardala bene, si ha fatto tagliarli, se tutto in ordine, guardala bene, però sono motori che sono trattori, sono. 3.000 euro, ma non arrivo. Cazzo, sono macchine che va, guarda, grazie a Dio, cazzo, guarda, e poi sono silenziose, come motori sono silenziose, non sentono manco uno scricchiolio nella mia, e va di 19 anni. Immagino. Cazzo, 19 anni va, vabbè che ce l'avevano signora che c'aveva un garage, la teneva dentro, qualche ammaccatura ce l'ha, ma non ha fatto un cazzo. Quella, quest'estate, se me la fa questo amico mio, me la fa tutta, ma non mi interessa, ammaccatura mi ha fatto un cazzo, quella è ammaccatura di sportello da parcheggio. Non è per, non è per riguardo le macchine, lascia per, ce l'ha per, sa che mio nipote la 600 è sempre buonelli di là in alto, sempre buonelli di là in alto, lascia perdere. No, quelle macchine non le pigliate, le Toyota sì, perché le Toyota lavorano bene, quelli della Toyota. C'è anche un amico mio, me l'ha detto, che sono macchine indistruttibili. Non è perché ce l'ho io la Tarì, sono macchine che vanno bene. Ce l'aveva uno, uno di fuori che conoscevo. Beh, questa macchina che conosco tuttora, non conoscevo, questa macchina ha più di 400.000 chilometri, la Tarì. Beh, tra ghiaccio, nevi e tutto quanto, se è per un primo gol, compagno. Naturalmente li devi fare sempre su italiani. E lo credo. Cazzo, io c'avevo un Opel Kadett nel Bari, era. Sì, di. Di Daronga Ronga e va più. Beh, allora sai che l'ho demolita io perché me ero stancato. 300.000 chilometri e puni e moto, un mezzo giro di Giavi, una riga, un mostro di macchina. Cazzo, figurati. C'è la macchina che sta te bene, che le fai sui cambi dell'olio, candele, filtro, queste cose qua. Ma da chi la demolita? A chi mi viene facciato la biancada e non ne vuoi raccontare? Va via 300.000 chilometri la macchina, ma metterla in moto tutto, ti la giubucciata andendo a rubare il rovescio. E l'ho demolita. Mi ero stancato proprio di quella macchina. 300.000 chilometri aveva. Una belva era. E ancora c'è una via da fare chilometri. Ci sono tutti gente, cazzo, che e si noti che c'è R4, gli hanno già avuto uno o due. Cazzo, quanti erano i due. Trattori erano i suoi macchine. Sì, c'aveva del coso del R4 blu che ci avevi. Chi c'ha una villa giufusa? Allora è una cosa. Perché c'aveva troppi chilometri e mi si è rotta una faccia e l'ho crepata. Beh, l'ho rifatto un aeromotore, cazzo, una bella. Camminava pure di più da voi. Quelle delle R4 sono belle. Sono belle le R4. E confano che non va. Ma non è solo per quello, io la usavo anche per lavorare, trasportare cemento in campagna, uno di sacchi di cemento tra i puntati di questa macchina. Facciamo in luoghi che andava a casa, che manco con la gippi battavi. Vai tu che mi ha sentito questa cosa. Io lo so se mi devo vestire, devo andare a compleanno. Vestiti, vestiti. Sono giugana, mi fa dai. E beh. Ecco, se io non avevo buccia, okay. Il rubosteggio non era solo componente, ma se l'avevo buccia la prima non era stata, pure la carrozzeria era stata nuova, anche quando la c'è arreggata no, che non va via un graffio di questa macchina, mi erano tutta in facciata i nobili. Domenica. A colpi di Massetto, a colpi di Breda me l'hanno impigliata nella gappotta. Gente cattiva a cazzo, in civile che c'è qua, guarda, è una cosa che non si crede. Che sera, Tari? Eia! E così, sono macchine, le macchine sono così, le macchine devi tenere conto. Vabbè, quella di Luca era un po' conciata, era. Però prima di prendere bisogna mangiare due luci, prima di compararla. Ehi, al grido. Io la mia, quando la giubilata a seconda mano, la macchina mia, va 22 anni la mia, va. Però non è a chilometri, perché ultimamente non la sto prendendo, capito? C'ha 146.000 chilometri, però è diesel la mia, cazzo. La mia è facciata, ma cosa mi l'hanno facciata ai noghi? Finta a colpi di brida deve essere mi l'hanno imbigliata. Cazzo, perché non mi va fuori? La prima la vicina buccia in questo bostino. pomeriggio, era stata noi da muro di carrozzeria, perché quando l'ho portata qua da campagna non c'aveva manco un graffio. E perché non vi fai dare una rinfrescata tutta quanta? Di Napoli, Boni! Tutta ciacunata da rugosa, grafiso, il parcheggio Milano è arruinata, tutta. Ma poi mi si è cotto un camion da Redu, sicuramente, a che una mi rugoppa, non va un colpo, come se che mi si sia rombato qualche furgone, assumi. C'è anche la capota è acciacunata, che mani qui tu, cazzo, dove c'è colpi di macello, per gente mara, no? E allora già la vi dirà di dare qualcosa io, senza colpi di macello. Io ho uno o due specchietti in terra già ciappato, che mi ricudia una fada di bere e me ne facciava nello specchietto. Bastardi. Gente bastarda, cazzo. Ti sto dicendo, se l'avessi messa prima in quel parcheggio dove la sto mettendo adesso, sarebbe stata nuova pure di carrozzeria. Di non sono va niente, ha fatto sempre tutti i tagliandi, la macchina mia. Cazzo. Si parlo giù, ci ha fatto la bomba, rosso, rivigili, di tutto canto. Il motore ha un giro di giave e poi è morto. Cazzo, se la macchina la rifai quelle cose lì, la macchina dura. Devi fare sempre questi tagliando qua. Io adesso la mia la devo fare a 180.000, la cura. Ma fa 180.000 la devo fare 2 anni ancora. Giura Dio. Oppure la mia l'avevo presa a seconda mano, lo sai quanti chilometri aveva? 29.000. La giubilata da Zunino, Bagosa Chisto, rappresentante era nato un figliolo e la macchina era troppo minore ed era rappresentante questo qui. E si aveva preso una Opel di quelle Station Wagon per poter mettere le robe di lavoro, no? Perché la mia era troppo piccola e quindi. E la gente, ma ci ha fatto il padrone di questa macchina. Il primo padrone, me. Ma ha ciappato la battendo una battita di balloni e mi ha ciappato in chibi, mi ha ciappato. Cazzo, questa era mia la macchina era. Oppure hanno scoperto. E si è pigliato una Opel Station Wagon, perché era un rappresentante questo qui. Cazzo, pensato. No, l'appunto, guarda, io ce l'avevo l'appunto lo stesso, come la tua. Però la mia era 1.200 benzina. Guarda, l'appunto non mi ha mai dato problemi, anche lì mi hanno messo sulla addosso, l'ammortizzatore. La fretta di comprarla, anche io ho preso delle bidonate, una bidonata. Però alla fine dopo ho sistemato tutto quanto, gomme, ammortizzatori, lui una giubbotta di nell'altro. E poi però a me, grazie a Dio, non mi ha mai lasciato a piedi, andavo a lavorare, andavo a Urbia, andavo, che se non ne ha dubbio. Sì, pure la mia, si fermava quando mi hanno messo l'acqua nel coso, nel gasolio. E ossia se vi leva era pure brutto questo gasolio, niente ne era giudirato. Ha giudicato tutto il serbatoio, vedi che 60 litri di naffata, vedi. Ce l'ho dovuta tutta buttare, ho dovuto mettere un po' di gasolio con l'additivo, perché se mi rompeva il iniettore, cazzo, mi costava più di 1.000 euro il danno. Vai giù, cazzo di E allora, la giubbotta nell'autostrada, io in chivi, la benzina che ho fatto senza gasolio, però ma nella devasiva viene i segni brutti, dici. Cazzo, la robustezza, boom, e mi si è fermata la macchina di Goip. Va bene, dai, ragazzi, se no ti pigli a botte, non muovere, è già nervosa. E con un colpo di chiesa manganello, ve lo do io, ve lo do. Senti nervosa, Ma io vado giù il giappo di credito, la te non lo sai che c'è il signore. Alla fine, mi acciappi i mirabiglienti. Va bene, dai, aspetta, intanto mi sacco anche io. Si gonfa, va. Cazzo, domani è che mi sono. Ciao Manuè. Ciao Concetti. Giorgio Bandi di Ginko. Sì, la massa di Neva di Na, per carità. No, se ce li hai sempre, portuali, virai. Non so. Travaglio, non arrivi, non ti cracchi, però devi stare attento. Quello. Il problema è quello, il lavoro è quello lì. E vai in ufficio, quando entrano i mesi, nome, cognome, orario di ingresso, orario di uscita, basta, arrivare. E se il travaglio andava bene a me, quelli sono lavori che posso fare io, lavori di diritto non li posso più fare, per il problema della schiena. Chi c'è poco ma sicuro. È un casino, quando c'hai questi problemi di schiena, è un bel problema. E a me lo dici, chi non posso camminare faccio che c'anca, chi non. Mamma mia. Come ti so più. Non lo so neanche io qua. È un brutto periodo veramente, se non riesco a mettermi a posto qua è vabbè da, io me ne vado a mangiare, vi saluto tutti molto cordialmente, alle prossime da. Sì, ciao a te, buona cena, ci sentiamo quasi mai a domani. No, domani no, sì, domani è smontato le 2:30. Ciao, anche mi sto vestendo, devo uscire, ciao. Ciao Marue, poi senti qualcosa fammi sapere, dai, ciao. Prego, salu. Qualche macchinetta, tanto la porto sempre da meccanico. Guarda, ce n'è una a Porto Torres, come la mia, la stavano vendendo 1.500, su Marketplace, guarda. Tu scrivi Yaris 1000 benzina. E dopo controllo, dai, vabbè. E devi per la capire così che non vai subito al 100% che le macchine vanno bene. Guarda, la prima di prendere, prima che non prendi un carraggio, se sia buono di motore, quanti chilometri c'ha, specialmente se c'hai dischi buoni, la guarda che gli ammortizzatori. Vabbè. Dopo queste macchine sono così, si rompono. Dai. Do un'occhiata, ma più tardi, o domani. Ma non ha più tempo, mi vedo un whisky, mi saggerisci. Dai, ci sentiamo, Manuel. Ciao, ci sentiamo, buonasera. Altro.